Pillola di luce del 3 agosto 2009, dalla vita di Chiara Luce Badano. Alla vigilia della sua morte, il 6 ottobre 1990, Chiara ebbe a dire a Giuliano, un suo amico: bisogna avere il coraggio di mettere da parte ambizioni e progetti che distruggono il vero significato della vita, che è credere nell'amore di Dio e basta.